Per i 20 milioni di abitanti dello Sri Lanka le elezioni politiche sono un vero terno al lotto, fortemente volute dalla presidente Chandrika Kumaratunga, che a febbraio ha sciolto il Parlamento, dovrebbero mettere fine a una crisi istituzionale che dura da mesi e decidere della difficile coabitazione tra il capo dello Stato e il premier Ranil Wickremesinghe. Il fatto è che Kumaratunga e Wickremesinghe non vanno affatto d'accordo. La presidente, a capo del maggior partito d'opposizione, è sempre stata contraria a come il primo ministro ha gestito il processo di pace con la minoranza tamil, che, grazie ai buoni auspici di una mediazione norvegese, aveva chiuso con un cessate il fuoco nel 2002 una guerra durata 19 anni che aveva fatto pagare allo Sri Lanka oltre 60.000 vittime. Ma quando si è arrivati a discutere di uno statuto federale per le terre tamil, Kumaratunga, spalleggiata dalla lobby buddista, dai nazionalisti e dall'ex partito comunista insurrezionalista, ha gridato al tradimento e alla svendita della sovranità nazionale. Se oltre la metà dei 225 seggi parlamentari andrà all'alleanza guidata dal partito della Kumaratunga, finirà l'odiata coabitazione. Ma se dovesse vincere la coalizione cappeggiata da Wickremesinghe, allora i guai torneranno forse peggiori di prima. Tornerà la coabitazione tra un premier e una presidente che si detestano, ma non solo. Nell'uno e nell'altro caso i due contendenti dovranno subire le imposizioni dei partiti con cui si sono alleati per vincere, gli uni a favore, gli altri contrari al processo di pace. Nei due casi ci sarà battaglia, una battaglia che potrebbe portare a riaccendersi della guerra, di cui 1200 incidenti costellati di vittime della campagna elettorale sono stati un funesto preannuncio. Emanuele Giordana, lettera 22 a Misnet.